Allora, questo è il primo di tre incontri che in realtà potrebbero diventare quattro, dopo vi dico, che diciamo sulla traccia di questo testo che ha scritto lui, quindi con le parole dell'autore sulla traccia di questo testo, vorrebbe affrontare le questioni del carcere con un occhio. Il libro si chiama Non è più il carcere di una volta. Diciamo, alcuni di noi sono un po' abituati a delle rapporti o, come dire, rappresentazioni del carcerario di un tempo, e in realtà l'istituzione è molto cambiata sia nella sua struttura generale che dal punto di vista della composizione dei detenuti e delle modalità di trattamento, eccetera, eccetera. Quindi vedremo un po' come si è sviluppato nel corso degli anni questa situazione che ci porta ad oggi. Questo testo si basa, poi forse lui lo dirà, delle corrispondenze ricevute dal bollettino di Olga. Si basa sull'analisi e la riflessione attorno alle corrispondenze ricevute, quindi prende spunto da là. La voce dall'interno del carcere è una cosa difficile da raccogliere oggi più di prima, e questo materiale in qualche modo è utile per questo genere di indagini, non so come dire, tentativo di costruire il quadro. E quindi questa prima puntata sarebbe dedicata a questa questione. Poi abbiamo, adesso l'ordine forse lo posso sbagliare, un lunedì sui dispositivi premiali, la legge Gozzini e quindi cosa succede quando si introduce, perché niente è esistito da sempre, né il carcere né le sue rappresentazioni attuali, quindi i dispositivi premiali, ah, eccolo qua, perfetto. E uno invece sulla differenziazione e quindi sulla rottura di quello che è il corpo unitario dei detenuti. Dicevo che forse saranno, questi sarebbero tre sul libro. Potrebbero essere quattro perché potremmo aggiungere sempre nel mese di novembre un incontro sul carcere minorile. Il carcere minorile manca in questo materiale di cui parleremo adesso. Noi abbiamo organizzato la presentazione di un libro sul minorile, un libro scritto da Paolo Bellati e Renato Curcio con dei ragazzi detenuti minori. Minori non è detto, detenuti al Beccaria, in quel lavoro di socioanalisi che Renato fa abitualmente, quindi con quell'approccio, e questo però non si poteva fare prima del 6 dicembre, quindi sarà il 6 dicembre, se un sabato. Se riusciamo, invece, il lunedì 24, daremo poi comunicazione qua, quindi l'ultimo lunedì del mese di novembre, facciamo un incontro specifico sul minorile, lasciando quella data là così com'è. Perché lunedì noi abbiamo da tempo, perché lunedì non so perché, ma comunque diciamo noi abbiamo da tempo organizzato questa una sorta di cineforum, proiettiamo dei film il lunedì alle 9 con dei temi per mese. Questo mese il tema è il carcere, volutamente, e la cosa è stata un pochino costruita così. E quindi facciamo adesso questo incontro e segue il film. Chi vuole vede il film, chi non vuole non lo vede, chi vuole vedere solo il film verrà dopo, non c'è nessuno nesso rigido su questo. Grazie mille, beh, prima di tutto grazie mille di aver organizzato questa iniziativa, questo ciclo di presentazioni. Allora, oggi affrontiamo uno dei temi del libro. Il libro è un libro che approfondisce la governamentalità carceraria, in qualche modo come il carcere è stato governato, gli spazi sono stati pensati, organizzati, in una ricerca che viene appunto a raccogliere le lettere contro dal carcere inviate, ricevute e pubblicate tra il 2005 e il 2021. Questo qua è il periodo che si osserva. E vabbè, è necessario fare, visto che poi non parleremo troppo di questo tema qui, diciamo dei temi intorno alla governamentalità più di tanto oggi, perché oggi parleremo invece delle lettere. Però sicuramente bisogna specificare, nelle prime carceri di una volta, che cosa vuol dire? Per farlo un gioco, una lettera che abbiamo ricevuto, che è stata pubblicata, che diceva questo: un compagno che tra l'altro è uno dei fondatori del collettivo, uno dei fondatori del collettivo, dopo lui è stato in carcere per decine di anni, esce dal carcere nei primi 2000, rientra in carcere per fatti riguardanti le lotte dei Notab, si ritrova a San Vittore nel 2013, 2012 se non sbaglio, e ci dice: papà, è cambiato tutto, non è più il carcere di una volta. Insomma. E questo è qualcosa che comunque ritorna in tantissime lettere, è un tema proprio ricorrente in tantissime lettere, perché sostanzialmente cambia il carcere, cambiano i detenuti, e in qualche modo questo è diciamo, la cosa, insomma, la domanda a cui ho cercato di rispondere un po' per tutto il libro, in che senso ovviamente è cambiato. Però oggi parleremo delle lettere che hanno costituito proprio il materiale principale, unico del libro, perché si possono fare ovviamente libri sul carcere partendo da tantissimi materiali, chi fa le interviste, chi fa altro, io l'ho voluto fare dalle lettere. E poi appunto affrontiamo questa serata, appunto, il senso dello scrivere in carcere delle lettere. E non sono solo, ho scritto qualcosa a partire dalle lettere inviate e ricevute dal carcere, o appunto avere analizzato degli scritti che provengono dal carcere, che in realtà sono proprio anche un genere a tutti gli effetti, un genere anche letterario. Ci sono lettere più, ci sono prodotti più famosi di lettere dal carcere, pensiamo alle famose lettere di Gramsci o Nel ventre della bestia di Abbott, se vogliamo parlare degli Stati Uniti, le lettere dei fratelli Soledad pubblicate, che sono le lettere di George Jackson, uno dei fratelli Soledad. Ci sono, e questi sono, diciamo, secondo me, i libri che più, secondo me, hanno proprio influenzato il lavoro, anche il tipo di sforzo che ci ho voluto mettere poi nella scrittura del libro, perché sono libri, non solo perché sono libri importanti, ma perché insomma anche per i contenuti che portavano. Il libro di Malpezzi e Pirelli sui condannati a morte partigiani, dove appunto i partigiani scrivevano le ultime lettere prima della condanna a morte per mano fascista, o ci sono lettere leggermente più recenti, arrivano agli anni appunto, pubblicate di recente, ma che sono, vengono da più lontano, tipo Visto Censura ha pubblicato un ciclo di lettere di brigatisti tra gli anni 75 e l'85. È interessante perché affrontano anche temi più esistenziali di un periodo storico molto difficile, nel senso che coprono principalmente il momento dei banditismi e delle dissociazioni di quel periodo, che appunto richiamavano anche a questioni anche esistenziali. Oppure più recenti ci sono anche il libro di De Feo, che è esposto anche qui, che raccoglie lettere di detenuti in 41 bis, che sono stati in 41 bis, ora stanno tendenzialmente in circuiti di alta sicurezza, e che raccontano poi 41 bis, quando appena è stato concepito, per 41 bis emergenziale, fatto proprio di torture corporali, fisiche e psicologiche, che appunto sull'onda dell'emergenza appunto degli anni 90 contro il fenomeno mafioso. E anche sempre intorno alla questione del 41 bis c'è un altro libro, che anche questo è un libro di lettere, perché ci sono lettere diverse, ci sono lettere, adesso ci diciamo anche due parole rispetto a questo, il libro di Attanasio, che è un libro che di fatto, parleremo anche dei limiti, no? Di poter fare anche uscire una lettera. Nel suo caso dal 41 bis non sarebbe mai potuto uscire una lettera. E quindi che cosa ha fatto? Ha fatto uscire, è uscito un libro intero fatto di, e anche questo è esposto, c'è al banchetto, un libro intero costruito sulle istanze contro la direzione, contro la magistratura, contro tutte quelle figure che in qualche modo gli hanno fatto degli abusi nei suoi riguardi, e lui solo attraverso delle contestazioni che proprio legali ha potuto far uscire anche dei contenuti che erano troppo importanti per descrivere quello che è la condizione del 41 bis di questi anni, invece non appunto di quegli anni fa. Riflessioni personali che sicuramente dal carcere sono spesso molto interessanti, poi lettere di tutt'altro carattere, rivoluzionarie, perché appunto espressione di un periodo storico specifico o comunque quantomeno con una prospettiva rivoluzionaria, questo riguarda pure il presente. La cosa secondo me importante della lettera come proprio materiale e come, diciamo, come testimonianza è proprio il fatto che spesso chi scrive dal carcere, e in realtà io mi sono occupato di questo poi facendo il libro, ci scrive in un momento in cui, per esempio, vive un periodo in cui la sua, cioè, il suo percorso, cioè, di alta conflittualità, dove diciamo che il suo percorso di vita, se si vuole, ci raggiunge un'intensità che spesso raggiunge i suoi massimi. Poi uno potrebbe parlare del carcere, della noia, della quotidianità, delle routine, però spesso quelle lettere che abbiamo ricevuto noi, su cui ho cercato di fare il lavoro, invece sono proprio le lettere che, di chi insomma, ha vissuto qualcosa di veramente forte, se ha in ballo anche delle lotte che si sta portando avanti da solo o con altre persone. Sono momenti apicali che in qualche modo poi vengono testimonianti in queste lettere, che di fatto poi è anche l'unico modo con il quale può comunicare con l'esterno, non fosse per i rapporti più diretti, quindi intendiamo i familiari, quindi la visita che può fare al colloquio o alla telefonata. Però appunto al di là di questo, giusto per dare l'importanza, no, di quello che può testimoniare anche una lettera. E allora adesso entriamo un attimo nel merito di da dove, cioè, delle lettere, del libro proprio nello specifico, dopo questa premessa. Cioè abbiamo delle lettere raccolte da un collettivo, si chiama Olga, collettivo che nasce con la volontà di rompere l'isolamento tra dentro e fuori il carcere, supportare e insomma sostenere le lotte dei detenuti. E sostenere le lotte dei detenuti vuol dire non solo appunto rompere il dentro con il fuori, ma anche supportare, unire le lotte tra i vari dentro, diciamo, tra i vari spazi interni in carceri diverse, in sezioni diverse. Quindi in qualche modo è come se avessimo fatto come collettivo da piattaforma, dove più persone potevano scriverci, riceviamo le lettere, lo riceviamo tuttora, abbiamo uno scambio epistolare con loro e pubblichiamo all'interno di opuscoli che si trovano sempre nel banchetto, opuscoli con lettere appunto, queste le lettere che abbiamo deciso insieme, poi diciamo anche qualche parola rispetto a come, a, insomma, a cosa vuol dire poi pubblicare delle lettere, anche negoziare il fatto di pubblicare la lettera, e poi ci sono altri articoli, diciamo, di controinformazioni sempre all'interno dell'opuscolo. A cosa serve l'opuscolo? Proprio è il prodotto che è quello che facciamo, è uno dei lavori principali che facciamo come collettivo, proprio per informare i detenuti che magari non avrebbero possibilità di accedere a informazioni da fuori, perché magari vedono solo la televisione, leggono solo i giornali, quindi per questo la controinformazione, e soprattutto hanno la possibilità di leggere le lettere, che appunto dà un'occasione anche di sapere cosa succede nelle altre carceri, quali sono le lotte che sono in corso, eccetera. Le persone che ci scrivono sono anche persone molto, molto diverse, cioè ci sono lettere che spaziano, il tipo di lettera che viene pubblicata, c'è cioè una lettera da quello che appunto sta in situazioni di difficoltà economico, sanitario, spesso ci scrivono problemi che sono dei propri problemi proprio che non possono essere curati, con delle difficoltà di vario tipo, a persone invece con tutt'altra prospettiva di prospettive di lotte. Sono capitate appunto percorsi sia collettivi sia individuali, lo dicevo prima, ma anche persone che hanno, per darvi uno specchio dell'eterogeneità, anche persone che hanno istanze anche più riformiste. Ci sono di recente, per esempio, ci siamo messi, arrivano le lettere dal SINDEF, che è un sindacato costituito di detenuti che si vuole utilizzare la formula, diciamo, sindacale per portare avanti delle vertenze, per migliorare le condizioni interne e migliorare e vedere rispettati diritti che dovrebbero essere dati per scontato quantomeno nella legge, ma che di fatto vengono regolarmente disattesi. E quindi questo è, e quindi appunto ascriverci c'è proprio tutto un gruppo eterogeneo di persone che però quantomeno ha una postura critica nei confronti della direzione, tanto che in qualche modo tutti portano in modo differente delle lotte individuali o collettive per se stessi. Lo sforzo che è stato per il libro è stato quello di prendere, ho organizzato erano più di 1.000 lettere, sono 1.024, scrivo nel libro, lettere, e ho cercato di metterle insieme cercando di costruire un po' un discorso coerente sulla base di alcuni temi. Poi noi come collettivo, cioè oggi diamo importanza al lavoro delle lettere, al lavoro che c'è soprattutto dietro poi quello che è uno scambio di lettere, perché i detenuti erano ovviamente liberi di contribuire scrivendo quello che volevano rispetto alle lotte quotidiane. Noi abbiamo nell'opuscolo specificato anche le istanze che promuoviamo, siamo evidentemente un collettivo contro il carcere, per noi appunto il carcere è un'istituzione di classe che non fa che riprodurre le stesse dinamiche, le stesse dinamiche che stanno fuori, anzi serve proprio a consolidarle. E però i detenuti sono liberi di scriverci un po', sono stati liberi di scriverci un po' quello che volevano, e a volte anche in verità, proprio sulla base di quello che ci scrivevano, noi chiedevamo di approfondire alcuni temi piuttosto che altri. In questo modo tu costruisci un discorso proprio relazionandoti con i detenuti. Mi riferisco per esempio ai regimi specifici, dall'isolamento, il 41 bis, le carcere più premiali, quindi carcere diciamo soft che comunque verrà affrontato nei prossimi incontri, e questo crea a volte dibattito anche, quindi una persona si ritrova ad aggiungere qualcosa, togliere qualcosa. Di recente, per esempio, una delle altre dibattite è stato quello del SINDA, di nuovo questo sindacato dei detenuti. Oppure mi ricordo un altro interessante è stato quello sulla videochiamata, quando è stata, perché tantissimi cambi di politiche, cambi che comunque cambiano la quotidianità in carcere, quando arrivano spesso non è che possono essere ricevuti come cose per forza positive, cose per forza negative. Una di queste è sulle videochiamate. Dopo il Covid si sono diffuse le videochiamate, no? E uno direbbe, è meglio una videochiamata, cioè dice, perdi la fisicità, il contatto con la persona che ti viene a visitare in carcere, che è troppo importante poi vederla. E poi il detenuto però ti dice anche, però io da quando posso fare la videochiamata ho l'occasione di, non l'avevo mai rivisto, magari in carcere da 20 anni, non avevo mai rivisto casa mia, la rivedo attraverso la videochiamata, perché dietro la persona che chiama io rivedo i muri di casa. Ci sono tante cose che in qualche modo abbiamo possibilità di capire proprio per la profondità anche della relazione che uno riesce a creare facendosi un rapporto epistolare. Però poi ovviamente la lettera ci dà un sacco di informazione, ma anche tanti limiti. E i limiti sono la censura, prima di tutto. Censura formale, censura informale. Dal detenuto, penso tra tutti, proprio il primo che mi viene in mente c'è Mauro Busa, che sta facendo il giro delle carceri di tutta Italia, e per ogni carcere in cui va gli danno la censura sistematica, quindi per ogni lettera che invia c'è un timbro con il visto censura, quindi ogni cosa che mi scrive viene letta e ogni cosa che appunto mi scriveremo poi verrà letta a sua volta. Ma anche c'è la censura informale. Io mi ricordo che un po' di anni fa ci scrivevano al carcere di Opera, si era fatto un movimento poi particolarmente spinto da un detenuto in particolare che era Maurizio Alfieri, che era particolarmente combattivo, ma aveva portato avanti diverse lotte proprio per gli abusi che c'erano nel carcere di Opera, carcere complicato con il 41 bis, e quindi insomma generalmente un carcere un po' più duro rispetto ad altri, e ci scriveva, ah, guardate qua, abbiamo trovato dei sacchi con le lettere di Olga, come dire, da buttare, no? E questo per dire che, cioè per chi non lo sapesse, però insomma, magari qua siamo tutti, conosciamo tutti la realtà del carcere, però anche cioè, c'è una censura informale per cui si decide sistematicamente che se alcune persone poi non vanno più bene, certe lettere è meglio che non le ricevano. Oppure se certi indirizzi non vanno più bene, come quello però di Olga che comunque sia dal 2005 che esiste ad oggi, quindi gira per le carceri da diversi anni, dopo un po' che una persona si iscrive in qualche pubblica addirittura nell'opuscolo e la persona denuncia quello che succede all'interno del carcere, tendenzialmente può essere anche che appunto smetta di contattarci. Infatti questo è un tema proprio quando si parla di gestire proprio anche il rapporto epistolare per riuscire anche a garantire una continuità, no? Cioè cos'è che è meglio, avere una continuità per riuscire a pubblicare o pubblicare quella roba che è troppo importante da pubblicare, però poi ti bruci la persona che può continuare a contribuire rispetto a quello che c'è da raccontare delle sue lotte e quello che succede in carcere? È una bella domanda, tant'è ogni volta tu decidi un po' questa cosa, perché appunto dopo un po' che ci si iscrive la posta scompare e via dicendo. Poi anche sempre rispetto a questo non è solo neanche il fatto di essere censurati o appunto di essere censurati. C'è anche il costo, diciamo, di condotta, cioè il detenuto a volte fa questo mero calcolo, però è individuale ma anche comprensibile, che è se io continuo a scrivere a voi e non è che solo che non mi manca la corrispondenza, ma io ci vado, cioè, il detenuto ci va nei guai perché non è per la detenuta. Il carcere potrebbe per esempio fargli sanzioni disciplinari, potrebbe quantomeno contestare il fatto che lui ha una corrispondenza con persone che è meglio che non dovrebbe avere corrispondenza e quindi visto che oggigiorno la condotta, e questo lo affrontiamo nella prossima presentazione, comunque è una questione importante, nel senso che uno per uno scherzo del genere si può perdere 90 giorni di uscita anticipata in un anno intero, è tutto sommato valuta bene se tenere una corrispondenza che può metterlo in difficoltà da questo punto di vista. E poi parlando di costi, ci sono anche costi economici, cioè carcere istituzione di classe, sappiamo benissimo che c'è dentro tutta la marginalità che vive le strade di questo stato e quindi ci capita anche che le persone ci dicano: potete darci un sostegno perché noi non riusciamo nemmeno, non abbiamo neanche i soldi per scrivere. E quello è un fatto, anche quello è un limite effettivo che fa sì che magari una persona che magari ha anche tanto da dirti, dopo un po' non ti può neanche più scrivere. Poi ci sono tanti altri limiti, c'è il limite linguistico, ci sono per esempio tanti compagni che ci scrivono, che scrivono benissimo, scrivono i libri fuori, figuriamoci quando finiscono dentro e sanno anche descrivere molto bene quello che succede. Allo stesso tempo ci sono delle altre persone che sono magari anche analfabete, ci sono stranieri che non parlano nemmeno italiano e le persone analfabete a volte capita che ci scrivano perché sotto dettatura ci arriva grazie a un compagno di cella che può scrivere quello che loro dicono, poi ci arriva la lettera, però immaginate, cioè, quanto è macchinoso e quindi ci arrivano molte meno lettere, anche per dare un'idea di come e sia una raccolta di lettere che ha proprio un connotato che è appunto tutto quello che vi sto dicendo adesso. Alcune persone che hanno difficoltà di scrivere evidentemente ascoltano di meno, sono sotto la rappresentante di cielo. E poi appunto dicevamo prima gli stranieri, poi anche sul carcere femminile, io sto usando molto il plurale maschile quando dico detenuti, però è perché le lettere che abbiamo dal carcere femminile sono più o meno, ho fatto due conti, diciamo 4%, che è praticamente uguale alla percentuale di donne sul totale delle persone detenute in carcere in Italia. E quindi in qualche modo è stato difficile costruire tutto un ragionamento solo sul carcere femminile, perché insomma c'erano troppe poche lettere, secondo me, per riuscire ad avere un po' abbastanza materiale per poterne parlare. E poi, sempre rispetto a chi ci scrive, ci scrivono persone molto differenti, tendenzialmente come ci scrivono nelle lettere, persone che finiscono in carcere con la necessità di fare soldi e dal delinquente di strada al rapinatore, a chi tra l'altro viene per problemi psichiatrici. Legato anche a questioni psichiatriche. Poi, e che finiscono tendenzialmente nei regimi di media e di bassa sicurezza. Poi però abbiamo chi c'è scritto dal 41 bis, sia dei prigionieri rivoluzionari, tuttora in carcere anche da 20 anni in 41 bis, chi in alta sicurezza, anche questi compagni in carcere anche da 40 anni o più di recente, penso a tanti compagni anarchici in carcere in alta sicurezza, che ci scrivono, ma ci hanno scritto anche detenuti dentro per reati legati alla mafia e anche al terrorismo islamico per un periodo che ci scrivevano da carcere sardo. Questo perché il tema è anche, che secondo me è anche la ricchezza per me del contributo, perché se avessimo solo relazioni con persone che hanno solo uno sguardo sul carcere, secondo me non era neanche abbastanza, non era sufficientemente, cioè poteva essere sufficientemente ricco, però per me ha appunto dato ricchezza il fatto che fossero tutte queste persone diverse, e questo è anche il risultato proprio del lavoro del collettivo, che fa un discorso che non è legato. Non si ferma al discorso, diciamo, del reato, dice, ah beh, no, ma lui ha fatto quel reato lì, allora io non ci voglio avere a che fare, ma pone al centro proprio il carcere come il 41 bis come punta di diamante diciamo, della repressione, il carcere come istituzione che è uno strumento, insomma, proprio con dei fini che erano quelli che dicevamo prima e che appunto va messo in discussione proprio perché spesso quello che succede. E l'abbiamo visto in diverse occasioni, in un regime spesso va a ripresentarsi anche negli altri regimi. Banalmente il 41 bis fino ad un certo periodo era legato solo a persone con reati legati al stampo mafioso tendenzialmente, e poi è stato esteso per esempio ai compagni. E non è un caso, lo si diceva, infatti così è successo. Un'altra questione, secondo me, importante, che secondo me dà ricchezza anche questo al lavoro, proprio al materiale più che al lavoro che abbiamo come collettivo Olga, è anche il fatto che chi ci scrive sono anche dei perfetti sconosciuti, nel senso che spesso chi produce materiali sulle lettere sono persone note che hanno scritto, che scrivono, che scriveranno. E che hanno anche il loro percorso no, noto, ultranoto nelle lotte fuori, nelle lotte dentro il carcere. Invece da noi ci hanno scritto proprio persone che magari non le conosceva proprio nessuno e che in qualche modo però hanno insieme, mettendo insieme proprio tutti i contributi che hanno fatto, hanno costruito una voce corale che a quel punto lì diventa secondo me, che non è nemmeno un'opinione. Nel senso che ci sono veramente tanti, troppi contributi rispetto ad alcuni temi e quindi danno valore a quello che dicono. E infatti appunto non sono, dicevamo prima, non sono tutti compagni, non hanno nemmeno tutto, solo quel piano che può appunto richiamare a dei percorsi di lotta più anche consapevoli. Ma non che siano degli inconsapevoli le persone che scrivono, però parlo di consapevolezza politica, di un percorso, magari immaginarsi anche un percorso di lotta da quando vanno dentro a che cosa fare dentro, eccetera. Però, tuttavia, tutti, quasi tutti, condividono comunque una riflessione che è sempre rispetto a quel carcere di una volta. Che questo richiama una solidarietà tra i detenuti che è sempre più sotto minaccia, sotto scacco di invece una crescente individualizzazione che la vediamo fuori, come potete immaginarvi, c'è e come dentro, di individualizzazione tra i detenuti contro cui loro in qualche modo, anche solo scrivendo ad Olga, anche solo cercando altre persone che in qualche modo vogliono opporsi a certe logiche che sono sempre appunto parlavamo prima della premialità, del carcere duro, del bastone della carota, del divide t'impera, eccetera, si oppongono e quindi richiamano a quella solidarietà. Infatti, e lo dimostrano le diverse lotte che si sono viste in questi anni, cioè non è che i detenuti sono in qualche modo cambiate le forme con cui le lotte, insomma, sono cambiate le lotte, e lo possiamo vedere, ma la condizione dell'agire del carcere generalizzato, di individualizzazione, di punizione per chiunque alza la testa, cioè tutti i detenuti sono consapevoli di questo. Come dire, le ragioni per portare avanti una lotta, cioè non è che sono una protesta, scusate, ci sono sempre state. E continueranno ad esserci, perché in carcere oggi, tra i regimi più duri, isolamenti, parliamo diciamo la mano dura del carcere con le sue squadrette, il sovraffollamento, diciamo, strutturale del carcere, così come la iperpsichiatrizzazione dei detenuti, abbiamo delle percentuali da pazzi, tra l'80 e il 40% di persone sotto terapia che in qualche modo hanno una. In molte occasioni sono state anche alcune di queste persone le prime a reagire proprio per la difficoltà di riuscire a stare fondamentalmente nel posto sbagliato, nel momento in cui hanno una determinata condizione di dover subire certi soprusi e quindi giustamente fanno partire la protesta. Insomma, questo è per dire cosa? Le lotte in questi anni sono in qualche modo cambiate. Però perché spesso sono anche più di pancia e cambiano rispetto, io tempo fa ero qua nell'archivio e mi vedevo come sono cambiate, cioè come vedevo certi resoconti di certi percorsi di lotta, di certe campagne di lotta che facevano anche a San Vittore, i detenuti negli anni 70, che avevano tutt'altra progettualità, cioè c'era proprio un piano, c'erano diverse iniziative che venivano costruite, delle campagne che venivano costruite con degli obiettivi dove comunque chi portava quella determinata lotta faceva anche due conti rispetto a quello che poteva perdere, quello che non poteva perdere, i rapporti di forza che c'erano in quel carcere soprattutto. E invece le proteste di questi ultimi anni sono spesso proprio proteste a perdere, cioè proteste che diciamo che uno non è che le fa perché dice ah beh, e dopo così mi conquisto una libertà che non avevo, lo fai più proprio per reagire a quella oppressione. Poi un altro tema, e quindi cambia tutto, poi così come cambia, è cambiata un'altra questione, tra l'altro troppo importante rispetto a queste proteste. È come se ci fosse una sincronia completamente sballata tra le proteste che ci sono dentro le carceri e quello che succede fuori. Perché comunque durante il Covid sì, sono arrivate per prime le proteste dei detenuti, sì, poi ci sono state anche le proteste del Covid, ma non c'è stato nessun collegamento forte tra questi due momenti. Così come per esempio per la Palestina c'è stata una grande mobilitazione ora dentro. Sono sicuro che tanti, tanti detenuti hanno a cuore la questione palestinese, però non è stata così dirompente come fuori. E in più cambia in generale proprio un sostegno in generale ai detenuti. Cioè, ci sono anni raccontati in cui c'erano spessissimo manifestazioni fuori dalle carceri, spesso finire in carcere era anche la continuazione, se si vuole, della militanza. Oggi è completamente diverso perché non c'è questo sostegno da fuori ed è sempre più difficile individualizzato portare avanti delle lotte che ti porti finendo dentro, che ti porti da fuori. Poi, ciò nonostante, ci sono appunto, volevo spendere qualche altro minuto sul tipo di detenuto che ci scrive, che ci ha scritto le lettere, perché appunto abbiamo detenuti. Che si può dire irriducibili, vabbè, ci sono i compagni storici che non hanno mai chiesto nulla dal carcere, cioè, ci sono compagni che non hanno mai non chiederanno mai domiciliari, non chiederanno nulla, non andranno mai perché come fare andare a patti con lo Stato in qualche modo. Ma ci sono anche tanti altri detenuti che ci scrivevano di ben più recenti, penso a un Davide De Lobu che anche da solo ha provato a mettere insieme un'evasione che anche, sempre da solo si ritrovava in isolamento e comunque si è uscito senza mai chiedere, alla fine ha chiesto domiciliare effettivamente, ma senza mai andare effettivamente a compromessi con la direzione, che è un modo di vivere il carcere che spesso non viene più, cioè in qualche modo è sempre più difficile portarsi avanti. Se per loro, diciamo, anche solo fare una domandina, e quindi la domandina che cos'è? Fare la domandina, cioè fa qualunque tipo di richiesta, qualunque tipo di richiesta al carcere, quindi per qualunque cosa di cui hai bisogno, tu devi fare, notare l'infantilizzazione della parola, però appunto fare una domandina. E detenuti che appunto non farebbero di tutto per evitare di quello perché vorrebbe dire rassegnarsi, arrendersi proprio a quella istituzionalizzazione lì del carcere. Allo stesso tempo però sempre più ci sono detenuti che si sentono proprio perché comunque quella individualizzazione che dicevamo prima, comunque un po' la riproduci, nonostante tu mantieni fermo il piano di critica rispetto al carcere, anche la tua lotta personale, insomma, in qualche modo la porti avanti, però ti senti sempre più complice di un meccanismo che un po' è irresistibile, che è quello appunto dell'individualizzazione che c'è. Infatti sono tanti detenuti che si spendono anche su un piano più di sostegno rispetto ad altri detenuti, per esempio, ovviamente delle lettere di Claudio Lavazza che ci dice che cos'è l'anarchia, essere anarchici in carcere adesso. In qualche modo io ora che non si possono portare avanti delle lotte dirompenti più importanti che vorrei anche portare avanti ma che non si può, aiutava, mi ricordo, scrivesse aiuto tutti quei detenuti che hanno la possibilità di uscire dal carcere ma non hanno modo di rapportarsi con avvocati o con l'avvocato di riferimento, ma insomma aiutare i detenuti che hanno con cui far uscire e i miei compagni detenuti che almeno loro possono uscire. In qualche modo. Questo è solo uno degli esempi, però, che ci raccontano come in qualche modo lui dice che l'unico modo che mi resta per lottare qua è usare gli strumenti che mi dà a disposizione il carcere, per almeno faccio quello perché almeno vado verso una direzione che è più congrua rispetto a quello che penso e quello che posso dire. Ci scrivevano poi che in questo effettivamente un po' Olga si è riuscita un po' a inserire, proprio diventando un po' piattaforma per tutte le persone che raccontavano un po' come loro declinavano le loro lotte, insomma. Le loro lotte che, sebbene magari differenti, magari più modeste molte volte o anche solo individuali, in qualche modo riuscivano a risuonare negli occhi, nelle orecchie, insomma. Di altri detenuti. Io, tra le presentazioni che abbiamo fatto, mi è capitato di incontrare qualcuno che scriveva ad Olga, e infatti ci tengo a ripetere poi in questo percorso appunto di presentazione: ogni volta qualcuno dice qualcosa e quindi cerco sempre un po' di portarlo. E diceva effettivamente proprio questo: anche se ero da solo dove stavo in carcere, avere una piattaforma, qualcosa dove potevo sentire che non ero da solo a fare quello che facevo. Era veramente importante. Quindi questo è il senso dell'opuscolo. E questo tema della piattaforma apre a delle considerazioni che ci avviamo verso proprio la conclusione, poi nel caso facciamo delle domande, sul senso sul metodo sia di ricerca, ma il metodo anche di Olga in qualche modo. Cioè ci sono mille modi per sostenere i detenuti, io poi parlando del lato, diciamo, di ricerca. Io detenuto in carcere non lo sono mai stato. Per me sarebbe stato assurdo fare l'antropologo senza essere mai stato in carcere. Secondo me è una profondità di quello che è vivere dentro. Uno non lo può cogliere se dentro non c'è mai stato, non ci sta. Non sono mica l'unico a dirlo, peraltro. La lettera, in qualche modo, secondo me, è proprio ha un potenziale di spiegare, di raccontare una realtà che è uno negoziata, l'abbiamo visto prima, negoziata in che senso? Cioè, il fatto che tu puoi pubblicare, puoi dire questa cosa, forse è meglio non dire questa cosa, noi decidiamo di pubblicare questo contenuto piuttosto che quell'altro. Però alla fine è un prodotto, una volta pubblicato, che è proprio tutto quello che si è deciso di pubblicare rispetto a quel determinato tema, che può essere appunto il regime di turno, la lotta in corso, la repressione in corso in quella sezione, eccetera. E secondo me questa è proprio la cifra che dà valore e che in qualche modo ti permette anche di fare ricerca, allo stesso modo valorizzare quello che è un sapere, perché quello dei detenuti. Tutte queste mille lettere qui sono, secondo me, un sapere anche molto prezioso, che poi deve essere solo, può essere in mille modi magari canalizzato secondo alcuni argomenti, che però si costituisce proprio da uno scambio e è qualcosa che viene prodotto proprio di fatto dai detenuti stessi. E in qualche modo questo dà un valore importante. Quindi io ho scelto poi a mia volta di non occuparmi, per esempio, di alcuni aspetti, per esempio, relativamente alla vita quotidiana del carcere. Non ho deciso di focalizzarmi sulle lotte dei detenuti, ma molto più sulle strategie del carcere, come i detenuti hanno capite queste strategie e te le dicono e ti dicono: guarda, sta succedendo questo e quest'altro, e tu, in relazione anche a tutto quello che senti dal mondo carceri, metti insieme e cerchi di capire. E questo è un po' la forza di quel sapere. E a mia volta ho cercato di farne un'analisi. Un'analisi che però non è un'analisi solo specifica, tipo solo psichiatrizzazione, solo sanità. Ho cercato di scegliere dei temi e tenere insieme tutto. Tra l'altro, penso, questo è una provocazione che ci è arrivata in un'altra lettera, perché una delle cose che abbiamo fatto con Olga è stato inviare il libro ad alcuni de a più detenuti possibile e avere un feedback rispetto a come, cosa hanno pensato di quel libro. E una delle cose che ci è stato detto e che in qualche modo dava seguito al libro è stato: manca effettivamente, proprio perché c'è una settorializzazione un po' su tutto, c'è una di movimento, si faceva riferimento, ma anche dei temi sui quali si affronta il mondo carcere. Quindi ogni volta, e questo ce lo scriveva Anna Beniamino, ci diceva: ogni volta il limite che si ha quando si studia il carcere è che lo si guarda solo da uno sguardo troppo piccolo, per esempio, appunto, solo un tema, e cercare di prendere il bandolo della matassa, però un po' più per la sua complessità, effettivamente dà un po' un valore aggiunto. E in più, diciamo, l'ultima cosa, e poi appunto mi taccio, prima facevo riferimento sempre all'archivio, il primo Moroni, insomma, di queste lettere dei detenuti. Non c'era solo in quelle lettere un percorso raccontato dei detenuti, ma c'era anche un'analisi, c'era proprio un'analisi di quel periodo storico lì, di quel momento, il periodo storico inteso proprio quel momento, e un'analisi effettiva. Io ho fatto solo un libro, e l'analisi è quello che poteva uscire nell'ambito di quel libro lì, però appunto ho cercato di prendere tutto quel sapere lì che veniva fuori dalle lettere e quantomeno di offrire un po' un'analisi complessiva. Boh, questo è la parte 1 del libro, più insomma, sulle lettere esclusivamente, quindi le abbiamo solo un po' prese di striscio. E niente, grazie. Grazie. Qualcuno ha delle osservazioni, naturalmente. Una domanda: se facendo questa ricerca hai avuto modo di verificare l'esistenza di qualcosa di analogo in altri paesi, e sia come ricerche a partire dalle strutture carcerarie che come gruppi che tengono i collegamenti un po' all'altra, allora se come Olga siete stati in contatto, avete intenzione di entrare in contatto con archivi delle scritture di carcere, tipo l'archivio delle scritture palestinesi nelle carceri israeliane di cui si era parlato quella sera a Chicago, se ci sono situazioni interessanti che già conoscete o che vorreste conoscere. Allora, sì, facendo ricerca ci sono delle realtà che proprio fanno un lavoro sulle lettere, tra l'altro si è diffuso parecchio, proprio come pratica in vari spazi, un po' mi è capitato perché ho fatto un periodo a Brighton e anche lì lo facevano, ma in realtà in Inghilterra, Stati Uniti. Sicuramente sono due stati dove insomma ho visto che fanno questo lavoro lo scambio epistolare. Cioè, scambio epistolare è una pratica molto diffusa anche all'iniziativa, capita spesso che dopo l'iniziativa c'è l'occasione di mandare le lettere e quindi creare un po', mandare anche solo saluti, ma poi dopo c'è chi porta avanti questo discorso. Ci sono proprio delle realtà, qua mi riferisco negli Stati Uniti, se non sbaglio si chiamano Pink and Violet, se non sbaglio, Black and Violet, che fanno proprio un lavoro anche con i familiari, però proprio di di scambio epistolare, di mettere insieme un po' quello che viene fuori proprio da questi scambi. E poi in questo momento sono movimenti abbastanza recenti, quasi tutti post George Floyd, diciamo, però appunto anche qui, proprio perché la questione carceri con, diciamo, abolizione carcere, abolizione polizia, che è un grande filone che viene dagli Stati Uniti, effettivamente stanno portando avanti molto anche la pratica della scrittura in carcere, e queste sicuramente sono alcune. Tante volte le lettere sono usate invece in altri materiali proprio assieme all'altro, cioè uno fa un lavoro sul carcere, ci sono anche le lettere che completano il lavoro. Però devo dire che non è che mi si è sempre trovato chissà che, come dire, quanto così tanti appunto realtà, soprattutto quando vado in giro magari a presentare così tante realtà che fanno quel lavoro in Italia, vabbè, c'è Scarceranda, pubblica le lettere dei detenuti e le mette appunto in Scarceranda ogni anno, però appunto è un lavoro secondo me prezioso, ma non è fatto molto, anche perché richiede una continuità importante, secondo me. C'è il problema dello scambio epistolare che richiede una costanza proprio negli anni, i tempi del carcere sono lunghissimi, a volte devi aspettare un mese per ricevere una lettera o di più, quindi comunque sia un lavoro che deve dedicarsi. Non so se qualcun altro di Olga voleva dire qualcosa. Ma no, la cosa sulla quale si ragiona, allora, uno è quello a cui ti riferisci qua, della serata su Cobas, che non abbiamo capito molto di quella, ti ricordi, non è che fosse, però si può cercare di mettersi in contatto. L'altra cosa che io non mi ricordo se l'abbiamo mai pubblicato o se era solo una proposta che avevo fatto io, c'è questo libro che si chiama Foglia di Gelso, del 2020, che raccoglie delle lettere dal carcere palestina. E allora mi era venuto in mente per oggi, ma poi non so, mi sono scordata di stampare la lettera di questa ragazza, però per l'importanza dello scrivere, o la forma scritta, che cosa può portare, insomma. E questa ragazza si chiama Nur, prova a raccontarlo, non ho il testo con me, quindi magari sbaglio. Però mi ha colpito perché è una ragazza molto giovane, come tanti, raccattati su dall'entità sionista, arrestati con amministrativi, cioè quindi non mi spieghi niente di niente, una ragazza giovane che scrive questa lettera e dice che, questa testimonianza, cioè questo, dice che insomma lei era molto spaventata e il suo pensiero sarebbe stato quello di correre dalla mamma e piangere tra le sue braccia, però è un tribunale con gli israeliani, questa cosa non si può fare, quindi una forza notevole. E nei suoi trasferimenti avanti e indietro durante il processo viaggiava su questi furgoni che venivano chiamati frigoriferi, perché naturalmente per torturarli, poi in questi 2 anni ne avete sentito tutti raccontare quello che sono in grado di fare i sionisti ai palestinesi, ma ne hanno sempre fatte queste torture. Quindi mettevano l'aria condizionata anche d'inverno per generare. Lei insomma in questo avanti e indietro a un certo punto pensava ai suoi fratelli e con non ricordo cosa riesce a fare una scritta sotto a quel segno di metallo, so quale era, con una frase particolare rivolta ai suoi fratelli, ma poi non ci pensa più. Dopo tanti anni riesce finalmente a uscire lei e uscire anche i fratelli, perché molto spesso nelle famiglie palestinesi non si incontrano mai, perché dentro uno e dentro l'altro si trovano, e finalmente il fratello la abbraccia e le dice grazie. E lei, ma di che cosa? E il tuo messaggio. Era riuscita a leggere il messaggio che lei gli aveva scritto. E così mi è sembrato che come potenza della scrittura questo racconto, che sarebbe stato molto più bello se non avesse potuto leggere, però così provava, cioè no, la potenza della scrittura, ecco, lei ha solo 2 parole, è riuscita a comunicare con i suoi fratelli e questa cosa era, aveva riempito, aveva scaldato, scaldo se viva. Un'altra piccola considerazione, insomma, che però piccola non è nel contenuto, è che se noi imputiamo sempre al controllo che avviene all'interno dell'istituzione carceraria, che blocca la posta, sia con la censura, che col fatto di trattenere le lettere, farle arrivare, non farle partire, però di questi tempi chi entra in carcere oggi entra che l'unica scrittura che ha fatto fino al momento in cui non viene ritirato il tribunale è quella dei messaggi WhatsApp o TikTok, questi canali. Quindi non c'è una disabitudine profondissima allo scrivere, questo quindi è un ostacolo molto grave. Un tempo appunto i compagni dentro aiutavano, mi è capitato prima di aiutare a scrivere a chi non era in grado di farlo, al fidanzato, alla mamma, al papà, però per scrivere proprio a un'associazione come quella di Olga non è che sia nelle corde di tutti, in più anche dentro più di un terzo dei detenuti, più di un terzo, esatto, che quindi non sarebbe. Quindi teniamo in considerazione che la difficoltà diventerà sempre maggiore per tutti. Quindi una cosa carina, adesso che la scrittura non vuole di questa ragazza e invece è una difficoltà. Volevo chiederti dal punto di vista metodologico come avete raggruppato queste lettere, come siete venuti a contatto con queste persone che mi pare dallo statuto della loro presentazione erano già a priori consapevoli, diciamo, hai usato questo termine. È stato, diciamo, casuale una passa parola oppure avete cercato nello specifico delle persone? E secondo, se all'interno di questo livello di lettere c'è una minima rappresentanza appunto degli stranieri che sono in carcere? Allora, ad Olga, chi ha scritto ad Olga negli anni? Vabbè, c'è stato sicuramente un momento iniziale dove Olga ha avuto una spinta in più a seguito di una serie di arresti che ci sono stati. E in realtà in tutti questi momenti in cui diversi compagni sono finiti in carcere, spesso sono andati a conoscere persone che stavano in carcere, a loro volta, diciamo, non venivano magari da quelle lotte, e per semplice passaparola, e così di nuovo per passaparola queste altre persone a loro volta, è un continuo, ormai sono 20 anni, è un 20 anni di passaparola. Principalmente come vengono a sapere di noi, oppure ci capita sempre di scrivere alle persone che sappiamo finire in carcere per determinate questioni, e quindi appunto mandi la lettera e da lì chissà continua la corrispondenza oppure no. In altri casi ancora è vero, grazie del suggerimento, ai presidi, capita a volte tramite i familiari, può capitare appunto in alcune occasioni in cui tu sei fuori dal carcere e in qualche modo riesci a recuperare quel contatto che poi appunto di nuovo sempre passaparola un po' di fuoco. Rispetto metodologicamente parlando, allora come collettivo noi pubblichiamo semplicemente le lettere. Quindi prima la pubblicazione dell'opuscolo era mensile, ora va un po' ben più per le lunghe, però ogni tot pubblichiamo la raccolta di lettere di quel periodo lì, quindi diciamo che è cronologico. Quello che ho fatto io è stato di scegliere alcuni temi, poi sono i temi di fatto che andiamo a presentare nelle prossime presentazioni. Io cosa ho fatto? Ho scelto dei temi e ho ricondotto tutte le lettere che afferivano a quei determinati temi, li ho messi un po' insieme e ho cercato di fare un discorso coerente, leggendo, rileggendo, La fortuna è che appunto, e anzi la fortuna è direi condizione proprio fondamentale per fare questo lavoro, è stato il fatto che stavo in orga già da un po', quindi in qualche modo c'è un discorso che è già comunque già masticato tra di noi, nel senso ci sono delle questioni che comunque sono sempre quelle dopo un po', e uno che ti scrive, l'altro che ti scrive, la curiosità che fai, gli scrivi, a tua volta chiedi di più, insomma si fa un ragionamento nostro e io ho cercato di alcuni dei ragionamenti che si fanno ad orga di approfondirne. Per quanto riguarda gli stranieri. Gli stranieri, giusto. Sì, ci hanno scritto, ci scrivono. Allora, dicevo prima che ci hanno scritto addirittura, c'è stato, di nuovo, anche, riprende anche parte della risposta di prima a questa cosa. C'è stato una volta un compagno che è finito nel carcere di Utah, dove erano reclusi, detenuti, accusati, insomma, per reati di matrice, diciamo, legata al terrorismo islamico. E in quell'occasione, per esempio, abbiamo proprio avuto per diverso tempo una corrispondenza proprio di quel... Era Bancali, Sassari. Abbiamo avuto per un po' di tempo proprio corrispondenza di quel regime specifico, di quel reparto specifico. E quindi quella cosa lì, per esempio, è stata molto interessante. Allo stesso tempo anche perché... c'è stato un passaparola lì, però a loro volta anche altri detenuti che poi sono stati trasferiti, chi veniva da Rossano, chi stava ad Alessandria, più o meno erano questi le carceri dove questo tipo di detenuti venivano reclusi, ci scrivevano. E poi comunque ci hanno scritto diversi detenuti stranieri o anche persone che, per esempio, ci è capitato più di recente, abbiamo fatto proprio un'intervista a un compagno, lui straniero, tunisino, e ci ha raccontato proprio di tutto uno spaccato dell'essere appunto tunisino al carcere di Bergamo, al carcere di Biella e appunto quello spaccato lì. Io ho fatto proprio, più che altro, non è che non ci sia materiale, c'è materiale un po' su tutto, il problema è anche un po' una cosa secondo me di consistenza, cioè se hai abbastanza materiale su qualcosa riesci anche a descriverlo meglio. Io secondo me non era, almeno quello che ho valutato io, rileggendo tutte le lettere, era che sul tema degli stranieri, come su quello della psichiatria, non avevo abbastanza, io avevo conoscenza, e poi l'altra cosa, secondo me abbastanza lettere non c'erano, e quindi ho preferito non approfondirlo nel libro. Scrivono sempre in italiano? Allora, ci hanno scritto in inglese, chi? Ci hanno scritto in inglese, ci hanno scritto in arabo, queste sono, sì, direi le due... Però ci ha scritto in arabo perché magari dopo sapevano che riuscivamo a tradurle, perché sennò uno non è che ti scrive in arabo così sperandoti generalmente, così come in inglese. Una volta ci aveva scritto un compagno che era compagno palestinese, ci ha scritto in inglese. Però generalmente in spagnolo mai, per esempio, poi ci sono anche lì delle persone, cioè tra gli stranieri, alcuni stranieri ci hanno scritto, altri no, per esempio gli spagnici non ci hanno quasi mai scritto, cioè spagnici, scusate, latini, non ci hanno quasi mai scritto, ispanofoni. Non... Se riuscite a tradurre l'arabo sarebbe forse il caso di scriverlo sopra, dicendo... Scrivete anche in arabo, il problema è che cioè, non è così... La traduzione. Cioè, già non arriva Olga in carcere se poi stiamo discutendo. Non entra più che altro. Passerà mai più. Allora, ci abbiamo pensato. Sì, oppure la crea. Non si capisce, capite lì? È lì il problema. Non si capisce se la crea o la. Capiscono loro un po' per passare. Certo, questo risolvono per il mai. Una cosa ancora, il carcere di una volta, ci sono tracce di memoria del carcere di una volta, sia nelle lettere che hai studiato, perché dicevi molto prima, non so come la prima, oppure ci sono determinati modi di trasmissione e conservazione di questa memoria, per quello che siete, sei e siete riusciti a capire. L'altro invece ancora sulla internazionale, essendo che il tuo libro è uscito prima per Valtreve in inglese, hai avuto modo di verificare degli effetti sia nei circuiti militanti che a livello della ricerca rispetto alla situazione carceraria italiana, sia rispetto a Oca, che comunque è citata, è un concetto. C'è stata qualche manifestazione di interesse, ha avuto qualche effetto questo tuo libro a livello internazionale o no? Accendici di feedback di... Sì, proprio essendo che è uscito in questa edizione angloamericana. Ah sì, che è uscito anche in inglese? Sì. Ok. Allora, aspetta che non mi ricordo più. Sì, il carcere di una volta. Il carcere di una volta c'è un po' da... Secondo me è proprio un tema proprio ricorrente e lo si trova un po' dappertutto nelle lettere. Cioè, spesso nelle lettere. Soprattutto ci è capitato che sono tanti detenuti di lunga data che ci scrivevano e non per forza parliamo di compagni, ma anzi, spesso mi ricordo è lo stesso De Feo quanto Mino Faro, detenuti che sono dentro per in alta sicurezza, sono S1, escono dal 41 bis e stanno in carcere dall'inizio degli anni 90. De Feo anche da prima dell'inizio degli anni 90. E tutti hanno questo richiamo a questo carcere di una volta. Diciamo che c'è il modo di raccontarlo, che è quello proprio delle lotte dei compagni degli anni 70 e oltre, e invece poi c'è un altro che invece fa proprio riferimento a una generalizzata solidarietà che c'era tra i detenuti, cioè fanno esempi semplici, cioè dal che non ti mancava, non ti facevano rimanere senza niente in cella. Cioè oggi una cosa che ritorna sempre è che tanti sono i detenuti che non hanno i soldi per comprarsi da mangiare e non è che li aiuta qualcuno. E invece spesso c'era questo richiamo a una solidarietà anche umana, non solo per forza esclusivamente per una lotta da portare avanti per conquistarsi delle libertà per forza, che c'era come, però anche da questi detenuti meno politicizzati spesso trovi questo ritorno. Anche un'altra cosa che per esempio proprio uno dei due citati di prima fa sempre riferimento, lui dice oggi le lotte sono sempre più settoriali, più che altro legate all'opportunista di turno, cioè la persona si mette a fare le mobilitazioni quando gli convengono, invece diceva prima era molto più vissuta la condizione comune, per cui comunque sia c'era più propensione a unirsi a varie iniziative che portavano a qualcosa, perché comunque sia c'era il ragionamento che ci guadagnavano un po' tutti poi dopo a fare le cose insieme. Invece oggi, in opposizione all'oggi, perché appunto è sempre in opposizione all'oggi che fanno il richiamo del carcere di una volta, è sempre più che ognuno pensa proprio un po' al suo. Comunque non mancano i riferimenti, diciamo, per me, quando poi ho preparato questo testo, a furia di leggere il carcere di una volta, mi sono andato a leggere questi libri del carcere di una volta, perché poi sono usciti anche negli ultimi anni tantissimi libri che raccontano di quegli anni lì, penso gli ultimi, non so, di Pasquale Abatangelo, il libro di Maurizio Ferrari, quelli erano i tempi, tra l'altro, che un po' assomiglia. E non a caso peraltro, e tanti altri che in qualche modo ti danno un'idea di quell'immaginario lì a cui fanno riferimento. La domanda numero due era come quale che era? In inglese. All'estero, sì, non me la ricordavo perché non ha molto seguito questo libro all'estero, ma perché la verità è che qua entriamo nel discorso della produzione dei libri, cioè La tua posizione rispetto alla produzione dei libri? Io lavoro in università, e questo libro, il libro è uscito in inglese. Il libro è uscito in inglese, è uscito in ambito universitario e richiede per farsi un po'. Diciamo, i miei lavori in generale possono anche avere un seguito più di tanto, però non è che c'è stata una grande discussione intorno al libro, perché in generale il mondo delle pubblicazioni accademiche è un mondo in cui, vabbè, un po' ti leggono, però o diventi un po' una superstar, oppure sono libri così che girano, e io ovviamente mica dove vuoi che finisca. E invece lei è stato molto più interessante nel momento in cui è uscito in italiano, perché comunque sia Olga è una realtà anche più conosciuta, se si vuole, anche perché il libro parla del carcere di Milano e quindi interessa di più, e quindi ti chiamano molto più volentieri, sia nell'ambito più compagni, diciamo, sia nell'ambito anche più istituzionale, per presentare il libro, che alla fine poi è anche un saggio, quindi si presta benissimo anche in sedi, veramente in sedi varie. Il libro in inglese sì, cioè suscita l'interesse di alcune persone, però dopo non è che ha un gran seguito. Senti, ti volevo chiedere una cosa, questa espressione di carcere di una volta, sì. Io mi sono occupato per anni, e diciamo che l'ho sentito ogni 5 anni, no? Quindi il carcere di una volta è cambiato tante volte, nel senso che all'inizio degli anni 90, quando io mi scrivevo con i compagni, eccetera, mi dicevano non è più il carcere che conosci tu, ed era cambiato, perché come Pasquale ha riportato nel suo primo qua, dice, la valanga dei detenuti delle organizzazioni mafiosi ha cambiato la natura, perché poi alla fine degli anni 80, dopo il 91-93, sono arrivate a valanga, quindi nella cosa, e quindi non è più come una cosa. Un po' più tardi, quando i primi cominciavano ad uscire, non è più, perché è cambiata la composizione, metà sono extracomunitari, no? Il 99-2000 io sono andato a San Vittore da esterno, interno, e a fare i corsi per i mediatori culturali con gli FSE, e sono andato in giro perché San Vittore, che aveva una capienza di 890 persone, ne aveva 1560, era già extracomunitario, no? E i vecchi, cioè Tino Stefanini e quelli della Valanzasca, erano ancora là, dicevano ah, ma noi siamo gli ultimi moicani, questi sono... Cioè questa cosa carcere di una volta, lo si può dire... Allora io non ho letto il libro, mi pare difficile dare lettere, a meno che non hai lettere per 40 anni, se si ricostruisce questi cambiamenti, cioè, pare, non lo so, si è ricostruito questo c'era. Perché ti dico questo? Che il lavoro delle lettere lo facevamo... Basta farsi mandare le lettere da un castolato. Vedere se le ha scritte per 40 anni. Però il carcere di una volta, quelli in termini di analisi politica, eccetera, cioè il Soccorso Rosso, l'associazione dei familiari, i comitati contro... Cioè c'era un esterno dove parte di lettere non usciva dalle poste, non arrivava con le poste, diversamente, va bene, non è che Controinformazione aveva la lettera dal detenuto che lo scriveva, insomma. Non esistendo questo, trovo faticoso fare un lavoro di costruzione tramite le lettere, perché veramente arduo. E quindi dico, come hai ricostruito questa cosa? Tu dici che non sai, io non lo vedo, lo prenderò. Sì. Come si è riuscito a fare? Allora, i detenuti che ci scrivono, ci sono detenuti di primo corso, dai più giovani ai più vecchi, quindi in realtà c'è una memoria storica di persone che fanno riferimenti. Appunto, dicevamo prima, chi in alta sicurezza si è fatto il 41 bis negli anni 90, e hai per esempio un confronto tra il 41 bis degli anni 90 e il 41 bis di oggi. esempio semplice, così come altri detenuti che ti dicono non è più il carcere di una volta, questo piano, quello che dicevo prima, di questa solidarietà. Poi il discorso è, prima di tutto, un titolo, nel senso, il libro legge quello che c'è nell'analisi. Il libro è la provocazione. In realtà tu hai colto la provocazione, e ti dico di più, sono stato io riprovocato a mia volta dopo aver fatto il libro, perché io invio il libro a un detenuto, Paolo Todde, che è un compagno che sta tuttora in carcere a Utah, che ha finito uno sciopero della fame questa estate, e mi scrive cosa? Tu dici che il carcere è cambiato, ma guarda che il carcere, ora che per le analisi che hai fatto, è già cambiato un'altra volta, sì, perché c'è stato il Covid, perché c'è stato il Covid. È ovvio, il discorso mio non è che faccio io, voglio spiegarti com'è che c'è, non voglio spiegarti tutti i passaggi del carcere di una volta, delle sfumature tra il carcere di oggi e il carcere di una volta, però proprio attraverso questo gioco che secondo me fanno anche, cioè proprio, li fanno proprio i detenuti, questo modo di dialettico, di rapportarsi ogni volta a quello che non è, in qualche modo ti dicono quello che è, e quello che è ce l'ho attraverso uno spettro, sono 20 anni di lettere, che sono anche parecchie lettere, e quindi in qualche modo mi danno delle sfumature di quei 20 anni lì. Infatti io non dico tanto, voglio dirvi come è cambiato il carcere di una volta rispetto a oggi, sebbene alcune tendenze, lo dico subito, ci sono, evidentemente partono negli anni 70 e sono maturate oggi, e sicuramente la memoria storica dei detenuti te lo possono dire, ma io cerco piuttosto di fare una fotografia di quelli che sono gli anni coperti nelle lettere, semplicemente. No, ma comunque, leggendo il titolo, a parte questa cosa qui che va bene, un po' sottintesa, ma c'è un po' anche, uno pensa, sì, è peggiorato, non è mica più quello di una volta, cioè come viene, non sono più tempi. Sicuramente il carcere come fuori non credo che sia migliorato. No, però poi spieghi come. Anche quest'altra lettura. Esatto. Quest'altra. E cerchi di spiegare come si fa. Ma poi in più vorrei aggiungere che queste lettere sono dei trattati, cioè sono lettere, ecco, no, per dire, dei trattati. Io dicevo, creato, siccome riconosci, tu dici la cosa formale, informale, la censura, esiste anche l'autocensura di scrivere, che non dice che è quella più, è sempre stato, ma è sul concetto di analisi che parlavo, cioè a scuola è la stessa cosa, no? A scuola è la stessa cosa, se tu fai, quando insegnavi, se parlavi con i colleghi, gli alunni non sono sempre quelli di una volta, solo che siccome lo dicono da 30 anni, bisogna capire che quelli sono cambiati 20 volte per gli alunni. E quindi il problema è che non si pensi che una volta, una, cioè che esiste, come dire, prima e dopo senza i cambiamenti. Comunque sono peggiorati gli alunni o no? Prima non rispondevo, cioè nel senso non ho ripreso questa cosa qua. Io non sono d'accordo che non si possa fare un'analisi sulle lettere pubblicate. No, non dici quello, è un lavoro anche. Nel senso, ma nemmeno altro, cioè nel senso, io penso che compatibilmente con le attenuanti, i limiti e le opportunità che ti può offrire quella lettera lì, tu vai a discutere, tra l'altro nel lavoro che facciamo con Olga ci facciamo i conti da, io purtroppo 20 anni fa, non riuscirete a parlare se vuoi, però sto comunque in Olga da una decina di anni, sono cose che discuti, affronti, poi noi abbiamo le lettere da pubblicare, le lettere da non pubblicare, e quelle da non, a volte quelle che non sono da pubblicare ti danno anche la chiave di lettura per scegliere anche che cosa pubblicare e cosa non pubblicare a tua volta. È un'unica grande censura, ce le facciamo tutti, però almeno alla fine di tutto puoi anche dire, vabbè, almeno ho pubblicato qualcosa che si poteva dire, e poi da lì vedi che cosa puoi costruire, perché se no non puoi. Anche perché poi, questo lo dicevo, dico tanto questo, in opposizione al discorso di dire togli il caso in cui sei detenuto e puoi vedere evidentemente delle cose, ma altrimenti entrare dentro al carcere e vederne da, diciamo, operatore, anche quello è uno sguardo, io ho fatto per dire tutto l'universitario in carcere quando ero studente, cosa ti fanno vedere? Uno sguardo iper edulcorato, proprio edulcorato del carcere, ma vedere gli spazi che puoi vedere e per me lì racconti ancora meno. Se vai dal detenuto, come può fare il rapporto Antigone di turno, la persona che va a chiedere che cosa sta succedendo dentro, o si autocensura, come dicevi tu prima, tendenzialmente, perché comunque se arrivi dentro al carcere in qualche modo qualche accordo cioè entri dentro al carcere dove con la direzione ce la devi avere, quindi non è che vai lì a fare il testimone, come dire, segreto, lo sanno benissimo che per arrivare lì tutto quell'incontro lì è stato estremamente immediato. E quindi anche da quel punto di vista, secondo me, la lettera ha quell'opportunità lì di dire vabbè, almeno quelle mediazioni lì vengono un po' meno. Se vuoi scrivermi quello che vuoi, poi intanto lo sai come la vediamo, siamo... poi non riusciamo neanche a aiutarti come vorremmo, ma questo è quello che facciamo, pubblicare le lettere. Se hai voglia di denunciare qualcosa, di dire quello che è, raccontacelo e lo pubblichiamo. E da lì proviamo a farne un discorso. Volevo chiederti una domanda veloce, spero. Esistono ancora dei codici di scrittura per celare o per significare cose diverse? Faccio un esempio di uno letterario antico, era tipo ho finito la penna rossa e dunque ti scrivo in blu, che tradotto voleva dire tutto ciò che dirò da questo momento in poi prendi esattamente al contrario, cioè sto bene, avendo lo stesso codice. Mi domandavo se la rottura della solidarietà all'interno del carcere permetta comunque la composizione di questi codici o se siano persi. Dire che ci sono piccole cose, ma non direi, secondo me noi non l'abbiamo capito. Non lo potete dire. Ma ci sono modi molto simpatici che ogni tanto la gente tira fuori un po'. Io beh, di lavoro diciamo facevo il gelataio, io non ho mai capito che voleva dire quel lavoro lì. Okay. Dicevo, io prima di entrare in carcere facevo il gelataio, però non lo so, chi ha orecchie da intendere intende, io non lo so cosa vuol dire. Abbiamo pure pubblicato che ho letto ancora questo gelataio, non so che lavoro fosse. Lui lo sa. Ma a me aveva incuriosito il titolo, perché poi io ho fatto un altro mistero riguardo, nel senso che grazie una volta, quindi pensavo che affrontasse anche il discorso che del cambiamento appunto di queste epoca, siamo andati in una direzione digitale, eccetera, così poi ci ha applicato anche al controllo, diciamo al controllo corporale in questo caso, il controllo digitale che abbiamo, che si esercita ogni giorno, ma appunto quello corporale, quindi è interessante invece il fatto che si potesse appunto avere anche una fotografia di tanto, cioè dal punto di vista delle lettere, perché comunque penso tutti più o meno, insomma, abbiamo scritto, abbiamo ricevuto. E così, quindi invece penso che anche solo da una lettera tiro fuori veramente una cosa molto forte da quello che accade dentro, anche solo per sentimenti che accadono dentro, eccetera, così, che è un materiale anche abbastanza difficile di diffusione, come dicevi prima, insomma, così, e invece penso che da quel punto di vista è ancora più forte, questa è la sensazione. Grazie mille.